peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi tre novità, questa non è più una novità, parlare di novità, vista le finalità che si pone questa trasmissione. Tre novità di musicisti emergenti o comunque che ormai si sono consolidati come una promessa mantenuta. Un altro elemento, tutti intorno ai 30 anni, quindi stiamo parlando di giovani delle nuove generazioni, e un altro elemento che li accomuna sono l'area di provenienza, che sono nell'ambito chicagoano, ed è la cosa curiosa è che hanno poi linguaggi e intenzioni diverse tra di loro, perlomeno in parte. Pur avendo magari una stessa radice, uno stesso percorso accademico. Cominciando dal primo, Jonathan Finlayson, trombettista. Finlayson, peraltro, vede finalmente uscire il suo primo lavoro come leader di una formazione, di un gruppo, quindi gruppo peraltro anche di ottimi livelli, quindi un quintetto. Finlayson ormai ha già una dozzina d'anni, forse più, di esperienze alle spalle di alto livello, una partecipazione alla formazione, al gruppo di Tridgill, la partecipazione al gruppo di Steve Coleman, che peraltro Steve Coleman ha un po' l'abitudine, la pretesa da parte dei suoi musicisti, un po' come era a suo tempo San Ra, ma una pretesa che è di una sorta di condivisione estetica, ma anche che si propone poi in tutte le declinazioni della preparazione, della formazione dei brani. Quindi con una base di questo tipo, attualmente poi si è proposto anche nel suona anche nell'ultima formazione di Mary Halvorson, quindi sta cercando anche altre strade, pur rimanendo nell'ambito di questi musicisti. L'etichetta per la quale incide peraltro è la PI Records, che appunto è una sorta di cooperativa e di produzione, di casa di produzione dei talenti e dei grandi citati prima. Il suo primo lavoro è decisamente, come peraltro poteva anche essere in qualche misura atteso, un risultato di alto livello. La formazione, oltre a Finlayson alla tromba, che dimostra come sempre peraltro una capacità tecnica, una sonorità veramente di altissimo profilo, Miles Okazaki alla chitarra elettrica e acustica, un talento emergente importante al pianoforte, David Vireles, di origine cubana, Kate Whitty al contrabbasso e Damon Reid alla batteria. Ascoltiamo il primo brano. Una particolarità in alcuni di questi brani è una sorta di composizione a due temi, come appunto questo di apertura intitolato Circus, che si compone di due momenti, di due movimenti separati, che sono decisamente due temi diversi. Ascoltiamo. Thank you. Questo era il tema di apertura dell'ultimo lavoro, anzi dell'opera prima di Jonathan Fileson, intitolata Moment and Message. Il gruppo di Fileson si chiama Sicilian Defense, e che non c'entra niente con la Sicilia, ma c'entra invece col gioco degli scacchi, e qui la dice anche lunga sulla concezione matematica dell'estetica, che viene poi anche da Steve Coleman, sicuramente, soprattutto da Steve Coleman. È interessante vedere come lo stesso tema, però con una scansione ritmica diversa, il primo più serrato, più un bass, è il primo movimento, diciamo, e la seconda parte invece più rarefatta, danno una sensazione completamente diversa. E ascoltiamo un altro brano, sempre costruito su questo concetto di due movimenti, intitolato L'Oase. Thank you. Questo era Jonathan Finlayson and Sicilian Defense nel disco Moment and Message, il gruppo, il quintetto di Jonathan Finlayson, trombettista veramente di qualità elevata, un disco uscito di recente per la PI Records, Recordings. Sempre, come dire, un'altra delle facce anche delle nuove generazioni, e peraltro proveniente da Chicago, è un giovane, anche lui, un giovane percussionista, Dylan Ryan. Dylan Ryan, batterista, poi vibrafonista, musicista tout court, poi anzi direi artista, visto che si interessa di cinema, si interessa di letteratura, quindi in sostanza si muove nell'ambito delle arti con un interesse circolare. È anche leader e compositore, leader di alcuni progetti interessanti, diciamo che quello più consolidato e che quello peraltro che ha riscosso un notevole consenso giustificato da parte della critica, è Herculaneum, un progetto di piccola formazione, un sestetto, che ha al suo attivo ormai 6 lavori, tutti di notevole livello. La sua provenienza è, diciamo, prevalentemente dell'ambito rock, collabora con, che ne so, il Black Sabbath, o con formazioni della storia del rock più diciamo legata agli anni 70, alla fine anni 60, inizio anni 70, appassionato dell'heavy metal inglese, e appunto oltre a questo progetto interessante di Herculaneum vede adesso una nuova produzione, un disco che è uscito recentemente per la Cuneiform, etichetta molto attenta a questi linguaggi di confine tra forme diverse, diciamo tra rock, jazz e altro, un gruppo che appunto si propone, un disco intitolato Sky Blanche, ed è un lavoro, la formazione è intitolata Sand, Dylan Ryan Sand, e l'ultimo lavoro appunto è Sky Blackguard. La formazione è un trio con la chitarra Timothy Young, il chitarrista che collabora da molto tempo con nel Zoni Mars di Orbis, di Wayne Orbis, poi Devin Hoff al contrabbasso e Dylan Ryan appunto alla batteria, quindi diciamo che risente molto anche dell'area californiana più che di quello che può essere la storia dell'area chicagoana, pur collaborando però anche con musicisti della ACM. E ascoltiamo alcuni di questi brani che sono formalmente costruiti con grande capacità di scrittura, naturalmente eseguiti con le qualità che i musicisti poi sono in grado di esprimere, cioè quindi nessuna novità da questo punto di vista. Ne ascoltiamo il brano di apertura e poi altre due, sono tutte composizioni dello stesso Dylan Ryan. Thank you. Questo era il trio Dylan Ryan Sand, intitolato Sky Blackheart, un disco uscito recentemente per la Cuneiform. È una formazione di trio appunto guidata da questo personaggio eclettico interessante che è Dylan Ryan, con la chitarra di Timothy Young, che ne è il protagonista oltre alle percussioni, alla costruzione diciamo ritmica particolare. Un altro, passando completamente ad altra musica rimanendo però nell'ambito di Chicago, qui calandoci però proprio nella radice della musica di Chicago, cioè la ACM, uno dei giovani che collaborano in varie formazioni, in vari contesti con la ACM è percussionista Frank Rosalie, uno dei percussionisti di questa batterista, percussionista di questa vasta schiera di musicisti e di nuove generazioni, peraltro interessanti, che stanno emergendo dalla ACM. Anche Frank Rosalie è un musicista che sono diversi anni che lavora con formazioni le più diverse di provenienza della ACM, prodotte dalla ACM, lavori soprattutto usciti per l'etichetta Delmark, che è testimone di molte delle produzioni di questi giovani musicisti. E in questo caso lo si vede come appunto come opera prima, come leader e anche come autore dei brani che compongono questo Cicada Music, un disco che peraltro era abbastanza atteso, e la formazione è di alto livello. Fanno parte di questa formazione praticamente la maggior parte diciamo dei nuovi talenti, dei talenti emergenti cicagoani, e per citarli James Falzone al clarinetto, Jason Stein al clarinetto basso. Sono il clarinetto, diciamo che è il punto di forza della formazione dei fiati. Jason Stein, anche questo è stato leader anche di uno dei lavori più interessanti dell'ultima stagione. Keith Jackson, un clarinettista, anche questo, sassofonista, devo dire, per me uno dei più interessanti dell'ultima decina d'anni, e che, almeno da quanto mi sembra, non è apprezzato adeguatamente per le qualità che esprime, anche come leader peraltro. Anche lui ha il clarinetto basso e varie gamme di clarinetti, e anche al sax tenore. Poi Jason Dasiewicz al vibrafono, sicuramente il vibrafonista forse più interessante degli ultimi tempi e ormai una realtà consolidata. Jason Röbke al contrabbasso, anche questo ben consolidato, e Frank Rosali appunto alle percussioni. Ascoltiamo alcuni di questi brani. Il carattere che riesce a dare Rosali, direi che ha una sua originalità ed è interessante proprio il senso della costruzione delle composizioni. Naturalmente l'area è sempre quella un po' che può definirsi di free bop, di recupero del linguaggio della tradizione di Chicago, che parte appunto dal bebop, poi se non naturalmente anche prima, ma comunque perlomeno in questo caso dal bebop al free. Ascoltiamo alcune di queste composizioni. Thank you.

Abbiamo ascoltato l'ultimo lavoro di Frank Rosalie, Cicada Music, intitolato, disco uscito per la Delmark recentemente, con una formazione eccellente: James Falzone, Jason Stein, Keefe Jackson, poi Adasiewicz al vibrafono, Jason Robb, che naturalmente lo stesso Rosalie alle percussioni e alla batteria. E questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione o comunque prendere nota delle informazioni discografiche consultando il nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione musica, naturalmente Salpinoz. Questo è tutto, salve, alla prossima. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.